Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Quadrado vuole andare nel dribbling, ecco Dybala, si gira, prova il tiro, rete, rete, Dybala colpisce subito, Dybala Musk, Juventus Stadium impazzito, Juve in vantaggio. L'imbucata verso Iniesta, grande idea, Iniesta tutto solo, Buffa miracolo, incredibile. Wayne in mezzo, arriva anche Dybala, prova a girare subito, rete, un altro gioiello, un altro capolavoro incredibile, Dybala. Parte il cross, lungo dall'altra parte, colpo di testa, palo rete, Chiellini, Chiellini rete. È finita, la Juventus ha battuto il Barcellona 3-0. Rage against the machine, la rabbia della Juventus contro la macchina, per la verità un po' malandata, del Barcellona. Oggi siamo al Salone del Risparmio, folto pubblico davanti a noi, mi manca il mio amico Pierluigi Pardo, ma si trova in un luogo dove stasera ci sarà un'altra grande partita, e cioè Bayern di Monaco Real Madrid. Ciao Pierluigi. Ciao ragazzi, come va? Un saluto. Ciao a tutti, mi raccomando, risparmiate, ma spendete pure un po' risparmiate, un po' spendete, un po' lavorate, un po' godetevi la vita. Sì, io sto aspettando, sì. Sto aspettando Mino Raiola, sto aspettando Mino Raiola che sta per arrivare. No, naturalmente scherzo, ma saluto Andrea Roccabella in regia qui a Milano, qui alla Fiera del Risparmio. Mi ha accompagnato Edoardo Lavezzari, De Luca è un pigrone, è rimasto in redazione insieme a Gianmarco Ferronato, ma c'è Elena Ligios che ben conosci. C'è Michele Filippini, fiorentino delusissimo, oggi ha la faccia triste. A proposito di facce, di ufficio facce, come diceva il maestro Beppe Viola, io saluto Sandro Veronesi. Ciao Sandro. Ciao. Ciao, ovviamente scrittore e tifoso juventino. Oggi gli juventini li riconosci nei bar, in metropolitana, sui treni, in macchina, dalla faccia estatica. C'è un signore che mi sta mostrando una borsa con su una zebra. Oggi è il giorno dell'est, è il giorno dell'estasi più pura, mi pare. Beh sì, perché uno non lo sa mai. Sì, la Juventus è forte, questi anni ha vinto tanto, però non lo sai mai quanto è forte, e quando la vedi così forte ancora c'è l'estasi. Sì. Magari Barcellona quando vince, quando diceva, quando dicerà, magari in futuro con questa squadra non si sorprende più tanto, però per noi è abbastanza estatico vedere una partita come quella di ieri sera. Sì. Estatico anche vedere Dybala così, poi interrogheremo, sì. Interrogheremo Paolo Rossi, perché Buffon l'ha messo sul podio mondiale, io ce lo metto pure sul podio mondiale, non so cosa ne pensa Pardo e cosa ne pensa Sandro Veronesi. Ma sicuramente Dybala ha fatto una grandissima partita, ma devo dire che il titolo secondo me è non solo che la Juve abbia vinto questa partita, l'abbia vinta strameritatamente, ma che l'abbia giocata con quei sei lì contemporaneamente, sì, in bravo, campo, bravo, perché io mi ricordo, bravo, i discorsi che facevamo dopo Juve-Lazio, insomma Allegri è arrivato, questa è la grande vittoria di Allegri, poi ovviamente c'è un bravissimo ritorno a giocare, Pardo, perché bravissimo, è anche bravissimo, una grande vittoria di un'idea di calcio che non è ovviamente il calcio, diciamo, iper, non c'è un concetto di iper, ma è un concetto sempre equilibrato, ma è un calcio offensivo, perché quando tu giochi con Pjanic, con Khedira, con Mandžukić, con Cuadrado, con Dybala e con Higuaín in campo contemporaneamente, e come terzini scegli Alexandro, perché allora quando io ho visto Alexandro in campo, quando ho visto Alexandro in campo, ho detto ragazzi, Allegri è un genio. 800 24 00 24. Sandro, ha ragione Pierluigi Pardo, perché è chiaro che Dybala è il diamante, è la stella che brilla nel cielo del mondo, io credo a questo punto. Però è un tuo conterraneo ad aver costruito questo capolavoro di partita e ad aver costruito, posso dirlo, questo capolavoro di Juventus che ha da tempo smesso di essere la Juventus di Conte, nonostante qualche detrattore la pensi diversamente. Ma era ovvio, era l'ovvia e naturale evoluzione, non si poteva andare avanti con quella squadra di Conte, anche perché sono arrivati giocatori che Conte non aveva, bisogna dire anche la verità, che adesso ci sono 11 top player, mentre Conte ne aveva 4-5 di top player e poi si arrangiava con Padoin, con Giaccherini, eccetera. Però quando si cominciano ad avere giocatori di questa caratura, più o meno giocano tutte col 4-2-3-1, le squadre che vincono in Europa. Dopodiché la Juventus sembra poterselo permettere, lo porta, gli sta più addosso, perché ha una difesa fortissima, collaudatissima e capace anche non solo di controllare un tridente come quello di Barcellona, ma di andare a segnare con i Chiellini. Quindi questa è la cosa che ha fatto Allegri, cioè ha messo un 4-2-3-1 solido che non prende gol, mentre le altre squadre, vedi il Paris Saint-Germain, 4-2-3-1, però ne fanno 4 e poi ne prendono 6. Sì, ma io non ho dubbi, il Paris Saint-Germain si è impaurito ancora prima di salire sull'aereo per Barcellona. Io so già, ma posso, non è una speranza, so già che la Juventus non salirà con paura su quell'aereo per Barcellona. Luis Enrique ha cominciato a dire: ma 4 gol possiamo farli. Secondo me, in questo caso, lasciatemelo dire, la Juventus non si farà prendere a sberle a Barcellona, Pardo. No, ti posso dire di cosa ho paura io? Io ho una sola paura. Cosa? Ed è l'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid mi fa paura, ma veramente paura. Non lo voglio neanche sentir nominare l'Atletico Madrid. Beh, Il Bayern. Però io so voglia di giocare. Certo. Mi diverto col Bayern. Invece l'Atletico Madrid ti fa rimpiangere che è cominciata la partita. Soffri anche se vinci. L'Atletico Madrid è dopo due sconfitte in finale, l'Atletico Madrid in Champions è la cosa peggiore che ti possa toccare. Il Bayern è una rivincita delle ultime partite, insomma, io me la gioco col Bayern, con Borussia, con Real. Stiamo parlando però di finale o di eventuale semifinale, Sandro? Sì, qualsiasi finale o semifinale. Io spero di non avere tra i piedi Simeone, che ammiro, per carità. Perché meglio due partite, Sandro, meglio due partite, secondo me, che in una partita secca, cioè peggio in finale. L'Atletico Madrid, perché è una squadra, a parte che ha una maledizione nelle finali, questo potrebbe anche aiutare, però anche la Juve non è messa molto bene dal punto di vista delle finali. Lasciamo perdere le finali. Però io spero proprio che l'Atletico Madrid non arrivi nemmeno in semifinale, guarda un po', che non ci sia neanche il rischio di pescare. Poi chi viene. Comunque, se la Juve comunque adesso con la presenza di Veronesi qui, mi viene in mente un passaggio di caos calmo. Adesso non vorrei sbagliare citazione, in quel caso mi potete licenziare subito, ma se non sbaglio il protagonista di Caos Calmo, mentre è in macchina col navigatore, con sua figlia, si diverte quasi a sbagliare, no? Si diverte a sbagliare strada e a contraddire, è vero, l'ho letto qualche anno fa, si diverte a contraddire il navigatore. Ecco, questa mi sembra un po' la Champions del Barcellona, è la seconda volta che il Barcellona, ovviamente non si diverte, non è volontaria la cosa, è la seconda volta che il Barcellona sbanda clamorosamente di strada. Io Paris Saint-Germain Barcellona l'avevo raccontata e non mai pensavo che ci sarebbe stato quel ritorno lì. Quindi sono l'ultimo a poter dire, io ho la stessa sensazione, cioè io penso, spero stavolta di non sbagliarmi, ma penso che non ci siano margini, penso che la Juve abbia una superiorità rispetto al Paris Saint-Germain dal punto di vista della personalità e soprattutto della qualità difensiva. E ieri sera Fon ha parlato con un disco stampato, perché, con un libro stampato, perché è vero, cioè questa squadra ha preso coscienza, la Juve di Barcellona, io mi ricordo, siamo andati tutti lì a Berlino, era veramente la squadra che affrontava i giganti, la squadra che si affacciava a un certo tipo di scenario. Certo, questa è una squadra che anche attraverso le sconfitte, anche attraverso questa delusione, è cresciuta, e soprattutto il Barça è una squadra molto invecchiata in mezzo al campo. E il Barça è una squadra, è una squadra a fine ciclo. Di questo voglio parlare con Paolo Rossi subito dopo il traffico. Credo che Sandro Veronesi sia d'accordo anche su questa citazione di Caos Calmo: la strada la puoi sbagliare una volta, poi contraddire il navigatore può essere pericoloso. Ma io penso che dipende chi hai, che strada stai facendo. Col Paris Saint Germain forse sì, ma con questa Juventus è difficile, è molto difficile che possano, perché non ci sono punti deboli, per quanto stiano forti davanti. Avete visto ieri, senza fare le barricate, questi sono andati in orizzontale, non sono riusciti ad andare se non una volta. Una volta in verticale e poi incapaci, totalmente incapaci di cambiare ritmo. Sono andati tra il piano e il pianissimo. E allora, caro Barcellona, questa è la palla, giocatela e vieni qui. Così ha fatto la Juventus dopo aver fatto, dopo essere dopo l'uragano iniziale di Dybala. Sandro, grazie, ci sentiamo presto. Grazie a voi. Ciao Sandro Veronesi. Io immagino ci siano molti juventini, non solo qui al Salone del Risparmio, che hanno voglia di parlare. 800 24 0024 è il numero verde. Oggi non ho il monitor dei WhatsApp, ho solo quello degli SMS, comunque vale anche questo. 349-238-6666, torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Per quel che riguarda Dybala, è che Paolo ha fatto una crescita esponenziale in questi due anni e sta trovando la consacrazione. Io insomma, anche parlando ogni tanto con degli amici o anche con i dirigenti, quando si parla di grandi giocatori, è già da parecchio che dico che secondo me Dybala vale i primi 5, sta tranquillamente nei primi 5 del mondo e non sfigura secondo me neanche tra i primi 3. Questo era il totem Gigi Buffon. Signori del risparmio, del Salone del Risparmio venghino, che poi parliamo anche di closing del Milan e di altre barzellette. Io saluto Paolo Rossi. Ciao Pablito. Eccomi, ciao. Ciao. Senti, sei d'accordo con Buffon? Come no, caspita. Cioè, parlare di Dybala, lo sai che io ho un debole per Dybala. L'ho già più volte espresso la mia... Il mio giudizio, il mio parere su Dybala è davvero un ragazzo, un giocatore straordinario. È proprio una gioia per chi ama il calcio vederlo. Ogni volta che tocca la palla sembra che inventi sempre qualcosa, continuamente. Ha un tocco così raffinato, vellutato, ha fantasia. Il primo gol di ieri è una cosa incredibile. Si è girato Paolo, quanti giocatori al mondo sono in grado di fare un gol come quello? No, pochissimi. Lui in questo momento, forse no, adesso dico, naturalmente anche ieri c'erano questioni di attaccanti, di grandi campioni anche dall'altra parte, non c'è alcun dubbio, però lui è una gioia per noi tutti vederlo giocare, perché fa delle cose che altri in questo momento non fanno. Quindi diciamo un ideale podio, i due che c'erano in campo e che non hanno giocato bene, Messi, Neymar e Dybala? No, Dybala è lassù, sta lassù, non c'è alcun dubbio. Quando sta bene, ha passato un momento, no? Ha avuto un po' di un infortunio, ha fatto un po' fatica a rientrare, ma poi una volta che rientra, anche rientrato in condizione, adesso in questo momento davvero io lo considero il numero uno. Messi lo conosciamo, è davvero straordinariamente un grande campione in tutti i sensi, però vanno un po' a corrente alternata. Il Barcellona quest'anno ogni tanto fa delle stecche incredibili. Anche se diciamo ieri sera ha avuto di fronte una grande Juventus, grandissima, una squadra, devo dire una squadra in tutto e per tutto. Ieri sera la Juventus credo che abbia raggiunto l'apice a livello di anche di maturità, di personalità, e quindi sì, trovarsi di fronte a una squadra così non era assolutamente facile. Capolavoro di Dybala e capolavoro di un altro, è anche un tuo conterraneo Allegri, sì. Oltre che di Sandro Veronesi, che abbiamo sentito poco fa. Tra l'altro Pierluigi, fase difensiva perfetta, perché io l'ho vista in televisione dallo stadio ovviamente, il tuo collega Piccinini avrà apprezzato di più, però quando la Juve si piazzava davanti al Barcellona con Higuaín in punta costruendo questa piramide, guarda, a me ha ricordato un po', sembravano telecomandati, mi ha ricordato un po' nella fase difensiva l'Inter di Mourinho che andrò a fare l'impresa a Barcellona. Ma allora, è il calcio di Allegri. Il calcio di Allegri non è un calcio brutto, come magari pensa qualcuno, non è un calcio noioso, non è un calcio estremo, non è un calcio che vive, non è un calcio ipertrofico, né dal punto di vista dell'atteggiamento in campo, né dal punto di vista del martellamento continuo dei giocatori. Ad Allegri del record dei 102 punti non gliene può fregare di meno, così come non gliene può fregare di meno del premio della critica di giocare, di fare più gol di tutti in un campionato. Gli interessa il risultato. Da questo punto di vista è veramente un uomo e un allenatore risolto. Io sono rimasto impressionato, lo ribadisco, dal fatto che la Juve abbia affrontato la partita di ieri risolvendo tutti i ballottaggi nella maniera più offensiva possibile. È il punto d'arrivo, ma mi ricordo le cose che abbiamo detto già la domenica pomeriggio dopo Juve-Lazio, la prima partita col modulo nuovo, quando tanti dicevano che no, era una scelta provvisoria dovuta all'emergenza del momento. In realtà invece era il punto d'arrivo di questa squadra, ma è il punto d'arrivo delle grandi squadre. Ancelotti, qui siamo a Monaco di Baviera, ha vinto la decima perché ha spostato Di Maria in mezzo al campo, ha giocato a quel punto con tre tenori lì davanti e Di Maria tra i centrocampisti con le sue qualità offensive. Cioè, in Europa vince chi riesce a mettere tutta la qualità di cui dispone, quindi ad aumentare la qualità della squadra. Ovviamente la qualità deve essere sostenibile e quindi c'è bisogno di equilibrio, e questo è quello che ha fatto la Juve. Attenzione, perché qui arriva un altro punto, Pablito. Tu puoi mettere in campo anche 10 attaccanti, però come in Milan, ti ricordi, Ancelotti si inventò l'albero di Natale, si inventò tutta la qualità possibile in campo, però devi avere dei giocatori disposti a rinunciare a una parte della loro grandezza. Ad esempio Higuaín ieri ha fatto quasi il centravanti difensivo lasciando brillare Dybala, non parliamo di Mandzukic che ha fatto la partita da terzino, centrocampista, attaccante, ha messo l'assist. Questo è il passo difficile, cioè devi convincere i giocatori a rinunciare a un pochino della loro grandezza. Mi sbaglio? Non c'è alcun dubbio, è proprio così, tant'è che prima gli dicevo che la Juventus ha giocato da vera squadra ieri sera. Quello è un gruppo, è un gruppo che, perché quando nel momento in cui uno si sacrifica per l'altro e non si sente un primatore, una prima donna, e lì c'hai una squadra. Cioè Mandžukić, parliamo di attaccante di Mandžukić, ma oramai l'attaccante non lo fa più, insomma, fa il tornante, fa l'interditore, si butta, picchia tutti. Così anche Higuaín, che solitamente è molto egoista lì davanti, ma ieri sera si è anche sacrificato correndo a destra e a sinistra, andando ad attaccare i difensori, coprendo. E questa è una squadra, la dimostrazione che ha dato Juve ieri sera è una dimostrazione vera di una squadra unita, compatta. Io credo che la Juve davvero è una seria pretendente alla vittoria, lo dico sottovoce, ma bisogna dirlo. Insomma, una squadra così ha tutte le condizioni legittime per poter arrivare fino in fondo. Stasera capiremo qualcosa di più con la partita che Pardo racconterà da Monaco di Baviera e che tu, Paolo Rossi, commenterai dallo studio di Mediaset, sorbendoti la telecronaca di Pardo prima, naturalmente, come è normale. Stasera capiremo qualcosa in più, anche perché io resto convinto del fatto che, al di là delle paure di Sandro Veronesi sull'Atletico Madrid, cioè guardiamo un po' oltre, il vero rischio per sul cammino della Juventus possa essere un doppio confronto con il Bayern di Monaco. Meglio in finale il Bayern. Il Bayern per me è la squadra più forte. Detto questo, è chiaro che il test con Real è molto difficile, quindi insomma stasera è un'altra, esattamente come un'altra finale anticipata o semifinale anticipata. Il Bayern sembra la squadra sicuramente più potenziale, è una squadra che ha fatto 109 gol in stagione, è una squadra che ha dominato il suo campionato, sì, campionato ha un tedesco, allenatore, sai che roba, ha un allenatore unico secondo me nella al miglior allenatore secondo me nella preparazione delle grandi partite, lo dicono i numeri, tra quelli che sono rimasti in corsa a Champions League, che è quello che ha il pedigree sicuramente più importante. Detto questo, poi a parte che c'è questo dubbio Lewandowski per questa problema alla spalla, esatto, e non è un dettaglio. Esatto, esatto. Chiaramente la partita giocabile, insomma, far prima di far uscire Real Madrid, io stavo facendo i numeri, stavo preparando un po' la partita prima, c'è un confronto di numeri assurdi, cioè di quantità di semifinali, è la 23ª volta che si affrontano Bayern e Real, vabbè, sono mai affrontati in finale, ma si sono affrontati 6 volte dai. In semifinale. Negli ultimi 6 anni il Bayern, 7 anni il Barcellona sono andati in semifinale, quindi stiamo parlando proprio di storia del calcio. Stiamo parlando di storia del calcio. E a proposito di storia del calcio, un'ultima cosa che volevo chiedere a Pablito Rossi: tu sei stato uno dei grandi cantori della Barcellona di Guardiola, che quest'anno bene non sta andando, Pablito. Hai l'impressione comunque che questo Barcellona sia una squadra a fine ciclo? Non direi proprio così. Intanto diciamo che di Juventus-Barcellona è finito il primo tempo, quindi ci aspetta il secondo tempo e non pensiamo davvero di averla messa in, come si dice, in saccoccia, perché insomma il pericolo è sempre lì dietro l'angolo e loro hanno dimostrato davvero che i ritorni si sanno fare con i ritorni, le remontate, e quindi attenzione. Io non direi proprio che sia finito un ciclo, perché hanno giocatori ancora straordinari. Certo, ogni tanto vanno un po' in crisi e lo si vede anche. Sembrano un po' che siano un po' con le idee un po' appannate, che davvero sbandino ogni tanto e poi rientrano in carreggiata, perché hanno talmente tanti grandi campioni che basta qualcosa per accenderli e ripartono. Però per esempio il professor Iniesta, la carta d'identità comincia ad essere pesante, anche dubbio, per Piqué. Lo stesso Messi non è più il ragazzino che tutti continuiamo a pensare, insomma sì, è gente, certo, che ha vissuto mille trionfi e mille battaglie. Non c'è dubbio. Io in questo momento davvero avrei più paura, più timore del Bayern, di cui parlavate prima, e anche del Real Madrid. Sono due squadre, però la questa Juventus io penso che ce la possa giocare con tutte tranquillamente, sia Bayern, Real Madrid, ma li affronta veramente ad armi pari. Sono d'accordo con te, Paolo, grazie. Prego. Vediamo stasera dopo la telecronaca di Pierluigi Pardo. Noi ci ascoltiamo la borsa qui dal Salone del Risparmio e poi torniamo, e poi venghino si o rivenghino. Parleremo con Filippo Maria Ricci e approfondiremo il fronte spagnolo, sia per quanto riguarda il Barça che per quanto riguarda il Real Madrid. Dopo le 15 invece venghino si o rivenghino qui al Salone del Risparmio, si parla di closing. A dopo. Tutti convocati. Sono Enrico Ruggeri, questa settimana storie di follia e di passione al Falco e il Gabbiano. Jim Jones, il reverendo che convinse 900 persone a compiere il più grande suicidio di massa della storia. E poi assieme al re dell'hard, Franco Trentalance, racconteremo la storia di Linda Lovelace e della sua gola profonda. E poi voliamo sulle ali di carta fino a una storia che io conosco molto bene, il sogno delirante del dottor Frankenstein. E ripercorriamo i 3 secondi più lunghi della storia del basket, Alexander Bielov e quel canestro a Monaco 72 con Dino Meneghin. E per finire George Michael, dagli esordi fino alla sua grande carriera chiusa tragicamente. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 15.30 su Radio 24, il Falco. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. Tutti convocati. Felici perché il risultato è positivo per la squadra, per la mentalità, per quello che stiamo facendo in questo stadio davanti alla nostra gente. Personalmente contento per i tuoi gol, perché hanno aiutato che il risultato sia più alto, però sappiamo, siamo consapevoli che non sarà per niente facile al Camp Nou. Di sicuro che se noi facciamo e recuperiamo il nostro livello possiamo fare 4 reti da chiunque. Mi sembra che ha ragione, perché al Paris Saint-Germain hanno fatti 6, quindi voglio dire, invece noi bisogna lavorare per andare laggiù e cercare di far gol. I ragazzi vogliono arrivare in finale e su questo bisogna lavorare. Sappiamo che sarà una partita complicata, ma noi bisogna cercare di sfruttare, come ho detto ieri, le debolezze del Barcellona e i nostri punti di forza. Abbiamo sentito Dybala, grande protagonista della partita, che prima Pablito Rossi ha incoronato forse sul gradino più alto del podio al mondo in questo momento. Abbiamo sentito il grande sconfitto Luis Enrique, il grande vincitore Massimiliano Allegri. Stiamo per sentire i nostri ascoltatori. 800240024. Pierluigi Pardo, me lo immagino accomodato al sole in una birreria di Marienplatz, però stiamo tornando in albergo, però giusto perché sono invidioso come un cane, ti dico che le signorine dello stand accanto, che ti salutano con cordialmente, sono mica male, qui al salone del risparmio. Ascoltatori, Matteo. No, non immagini, poi ti mando le foto. Matteo, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Dica. Guardi, io mi riallaccio a quello che dicevate prima. Con Max Allegri abbiamo avuto, diciamo, dimensione internazionale, e la partita esatta, per assurdo, è stata l'anno scorso a Monaco di Baviera, quando fummo eliminati. Perché lì Allegri, nonostante le assenze di Dybala, Mandzukic, si andò a giocare la partita a viso aperto e secondo me fece un capolavoro. Ecco, da lì dissi arriviamo a Cardiff il prossimo anno, e infatti penso proprio che quest'anno ci arriveremo. Sì, penso, ecco, che una sorta di dimensione europea ci fosse già, dato che un anno prima si era giocata una finale, quindi non so se il punto di svolta sia stato quella partita di Monaco, Pier. No, è stata una partita che ha confermato lo scorso, e sarà anche abbastanza sorprendente, perché il match d'andata per 60 minuti il Bayern aveva dominato, poi la Juve era stata molto brava nel rimettersi in piedi e portare a casa 2-2, il ritorno era stato bellissimo. C'è stato un piccolo errore da parte di Allegri sicuramente con situazione di Morata, però complessivamente quella partita lì è stata, d'accordo con l'ascoltatore, fu veramente un capolavoro per la qualità di gioco della Juve. Poi il calcio è anche, nelle partite secche, è anche casualità, e quindi insomma quell'errore di Evra ha condannato la Juve, altrimenti avremmo parlato di una storia completamente diversa. Però il questo famoso benedetto DNA internazionale europeo Allegri l'ha sempre avuto, e adesso con una squadra di grande qualità come la Juve di oggi lo mette a nudo nella maniera più positiva. Questo non vuol dire che la Juve vincerà la Champions, intanto deve passare il turno col Barcellona, però ecco, siamo una squadra, scusami, ieri è successa una cosa importante, no, Pierluigi, molto adesso importante, anche in termini di immagine internazionale. Ascoltami, al di là della scaramanzia, della forza del Barça, eccetera eccetera, detto tra noi, tu pensi davvero che possono essere ragionevoli dubbi che la Juventus passi questo turno andando a Barcellona sul 3-0? Perché, cioè, io non voglio apparire eccessivamente ottimista, né voglio essere accusato di essere un gufo, oppure accusatemi di essere un gufo, fate un po' come vi pare, non è che mi importi, però sinceramente io questa Juventus perdere 4-0 a Barcellona non ce la vedo, No, questo senz'altro. Prima qui con il mio amico Nando Orsi faceva l'esempio di un quartiere malfamato di qualsiasi città, cioè sono a Roma, a Milano, in qualsiasi posto, e mi diceva che insomma giocare al Camp Nou è come trovarsi alle 4 di mattina da subito senza nessuna protezione in un quartiere, cioè ti prende paura. Questo non va sottovalutato, perché io, così come mi ho raccontato Paris Saint-Germain in Barcellona, ho avuto anche la fortuna di raccontare Barça Paris Saint-Germain, quindi ricordo. Però io ti dico, al di là dei due gol subiti in 9 partite in Champions League, cioè al di là degli aspetti statistici, io credo che la Juve abbia una forza mentale di un certo tipo, fisica. La rende di sì, fisica anche e mentale, perché specialmente la sconfitta se l'è fatta in buona parte da sola, perché scendono in campo male. Io non credo che la Juve commetterà questo errore, spero che non commetterà questo errore. E c'è Filippo Maria Ricci, che meglio di lui nessuno conosce le cose spagnole. Ciao Filippo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, mi pare che tu ti trovi nello stesso luogo di Pardo, cioè Marienplatz, Monaco di Baviera, per raccontare al Real Madrid di questa sera. Senti, ma il Barcellona... No, Atletico Madrid. Io sono a Madrid per Atletico Leicester. Ecco. Tutto, anche perché se non mi chiamavi per il pranzo mi offendevo, quindi no, quindi ci siamo geolocalizzati, ci rifaremo alla Sepulveda. Allora Filippo, cosa si dice del Barcellona disintegrato dalla Juventus? Cosa si dice di Messi sparito, di Neymar di cui non si sono trovate tracce, di Suarez che non ha nemmeno morsicato Chiellini, di un Barcellona dominato in lungo e in largo e io credo nell'impossibilità a questo punto, a meno di suicidi sportivi, di rimontare questa partita? Si dice che 4 indizi fanno una prova, no? Sono 4 sconfitte nelle ultime 12 partite, Paris Saint-Germain, Juventus e anche Malaga e Deportivo. Io avevo chiuso il mio pezzo da Malaga l'altro giorno dicendo la Juventus ha il dovere di approfittare di questo Barcellona. E così è stato. E adesso bisogna continuare su quella linea. Io sinceramente... Ma scusami, ma questo Barcellona... Ma allora si è sciolto perché? Dopo quell'impresa galattica... Questo Barcellona si è sciolto perché non ha ricambi, ha una rosa patetica. Questo è lo stesso. Allora, rispetto alla finale di Berlino, la Juventus aveva in campo 2 giocatori, Bonucci e Buffon. Ok? Il Barcellona ne aveva 8 e sarebbe stati 9 con Busquets. Uno dice: vabbè, cosa. Allora, la Juventus si è rinnovata e sul mercato ha operato in maniera magistrale, no? Ha venduto quello che doveva vendere, ha fatto i soldi che doveva fare e li ha reinvestiti benissimo. Il Barcellona ha speso un sacco di soldi, però per comprare pedine che non servono e che non sono all'altezza. Per cui tu ti ritrovi, sei il Barcellona, ti ritrovi che manca Busquets e non sai come sostituirlo. Certo, e quindi si è sciolto perché praticamente c'è una grande confusione. Io l'avevo vista a Malaga. Cioè, prima della remontata, Luis Enrique viene in conferenza stampa e dice: bene, se il Paris Saint-Germain ci ha fatto 4 gol, noi gliene possiamo fare 6. Bello, fa il titolo, benissimo. Allora, pensato Allegri, ieri pensavo ad Allegri. Il problema è che il Paris Saint-Germain ci ha creduto, hai capito? La Juventus, sì. Ieri ha detto noi possiamo vincere 4-0, ma la Juventus non ci crede. No, aspetta, ma poi io dico, pensavo ad Allegri, no? Dice, ma se il Malaga gliene ha fatti 2, ma che noi non gliene facciamo 3? E gliene ha fatti, perché così. E poi io ti dico, anche il Camp Nou, va bene, tutta la paura che vogliamo, tutto il rispetto per i 3 più grandi attaccanti del mondo, non è nessun dubbio. Ma questa è una Juventus solidissima. Ieri hanno fatto la partita perfetta, hanno attaccato i primi 4 minuti, il Barcellona non ha passato la metà campo, era una squadra impaurita che non sa più neanche fare tiki-taka, cioè, non ha mai rischiato, sì, ha avuto 2 occasioni, però siccome a calcio si gioca in 11, la Juventus ha anche un grande portiere e il Paris Saint-Germain non ce l'aveva un grande portiere, e poi c'erano dei difensori che sono patetici, dei centrocampisti che sono dei bambini, e qua voglio dire, questa è una squadra seria la Juventus, e poi tutto può succedere. Dimmi per. No, al di là del soprattutto, forse non soprattutto, ma oltre a tutte queste cose stragiuste, c'è anche un tema di tempo, nel senso che fra l'andata e il ritorno degli ottavi di Champions League passano 3 settimane, fra l'andata e il ritorno dei quarti di Champions League passano 8 giorni, cioè anche le tendenze possono modificarsi molto di più negli ottavi che nei quarti. Nei quarti è difficile. Barcellona? Ha perso 5-0 le ultime 2 partite, perché provo di nuovo, vado avanti sulla risposta a Carlo che mi ha chiesto come si scioglie, dico qui c'è grandissima confusione. E io avevo detto che il Barcellona aveva subito bene l'avvio di Luis Enrique, perché così mi sembrava che fossero, che il colpo fosse stato preso bene, e invece evidentemente no, ed è Luis Enrique che sta facendo una grande confusione, perché ha spostato tutti gli uomini. Ieri una rivoluzione, sì, ho capito, ma ieri quando ho visto Mathieu contro Quadrado, ho detto: ma questo è impazzito? Cioè, Quadrado contro Mathieu è un duello ai limiti dell'illegalità, posso dire. Sì, appunto, cioè, vuol dire, grandi contro bambini. Però dico, Jordi Alba, non so perché c'è, perché poi sai, Luis Enrique, no? Se l'era presa col povero Alex Vidal, non ha mai convocato, così faccio tutto, comincia a giocare titolare. Adesso ce l'ha con Jordi Alba e non lo vede più e non gioca mai. Oppure se tu sei Alcácer, che comunque al Valencia i suoi gol li faceva, l'hanno pagato un sacco di soldi, vedi che c'hai 3 attaccanti che non ne prendono una. Ma ieri che deve pensare Alcácer che non è entrato sotto quando la squadra è sotto 3-0? C'è una gestione pessima. E questo adesso poi dopo lui ieri sera ha attaccato anche i giocatori, tra le tante dichiarazioni che ha fatto, ha parlato di mancanza di intensità. Vediamo adesso che gli dice Leo Messi quando lo rincontra. Perché sì, voglio dire, avrà anche le sue ragioni, ma la storia è stata messa male. Ma come fai a mandare Mascherano a marcare Chiellini sui calci d'angolo? Ma come fai? Cioè, anche un bambino se lo domanda. Ieri sera ho visto la partita con dei bambini e se lo sono domandati anche loro. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta. Tutti convocati. Allora, prima di salutare Filippo Maria Riccio e Pierluigi Pardo e di lasciarli andare a vedere le rispettive partite, una a Madrid e l'altra a Monaco di Baviera, termometro della situazione delle due madrilene, comincia Pardo. Ma il Real sta benino, ha dei numeri positivi, 7 vittorie, 2 pareggi nelle ultime 9 gare. Ha secondo me comunque una grande abitudine positiva, una grande magia in Champions League, segna consecutivamente, è stato impressionante, da 52 partite ha fatto più di 130 gol in stagione. Insomma, non stiamo parlando esattamente di un fallimento. È un anno strano per Cristiano, cioè Cristiano segna la 613 gol in Champions League ed è la seconda peggior serie per lui. 613 hai detto? 613 mi pare, sì. Mamma mia. Da settembre mi sembra, sì, no? Sì, beh, ho fatto due gol soli, è abbastanza, allora è sorprendente in positivo che il Real quasi non si sia accorto di questa difficoltà. Sì, stesso discorso vale per Higuaín e per la Juventus, perché Higuaín comunque non ha inciso su questa Champions League ancora dal punto di vista dei gol. Insomma, poi comunque Higuaín considera che ha una... con tutto il rispetto per Higuaín, ha dei numeri quando ha fatto la Champions League che non sono quelli di Cristiano e Messi. No, questo è evidente. Medie da un gol a partita, quindi questo è abbastanza sorprendente. Io penso che Bayern sia favorito, penso che abbia qualcosa in più. È chiaro che Lewandowski e le condizioni di Lewandowski possono essere in questa partita andata non un dettaglio insignificante, ed è chiaro che quando tu arrivi a vedere queste partite qui, una squadra di questo livello è sempre una sorpresa, è sempre realmente un big bang, nel senso che non sai, sono due grandi squadre, due corazzate, dipende anche da chi esce meglio dagli spogliatoi, no? Certo. Questa è la sostanza, però dovessi dirti l'impressione ti direi Bayern. Pierluigi, ti saluto, grazie. Ciao, sento stasera. Commentare la partita. Ci sentiamo domani alla solita ora, alle 14. Invece io voglio un borsino Atletico Madrid che fa una paura dannata, fa una paura fottuta a tutti, soprattutto agli juventini. Prima uno ha chiamato e ha detto mi van bene tutte, ma non datemi l'Atletico Madrid. Sta molto bene e io lo vedo potenzialmente come l'unica squadra che andrà avanti tra le tre spagnole. Così. Poi adesso posso sbagliarmi, magari invece esce, magari l'Ester rivitalizzato da Shakespeare fa la tragedia del Calderon, però io lo vedo un buon Atletico, solido, con le sue armi, grande Griezmann, difensivamente molto bene, Savic in ottime condizioni, centrocampo interessante, per Catenaccio cui 2.0 e da lì non ci si muove. Sì, insomma il ciolismo allo stato puro è ritornato, si sono ripresi dall'ennesima ammazzata, no? Queste due finali perse col Madrid a distanza di 3 anni e li vedo bene, ti dico, penso, insomma, non mi sorprenderei di vedere nel sorteggio per le semifinali l'Atletico a rappresentare la Spagna. L'Atletico a rappresentare la Spagna. Ne riparliamo domani, Filippo. Ciao. Ok. Ciao Filippo Maria Ricci. Allora io chiudo questa prima ora dal Salone del Risparmio e dopo closing e dopo Milan, Inter, eccetera, eccetera, eccetera, dopo GR con Giacinto da Genova. Buongiorno. Buongiorno. Tanto sono felicissimo per la Juve, una grande soddisfazione. Beh, lei è uno di quelli che oggi gira con il viso in estasi, con espressione estatica. Pantaloni neri e camicia bianca. Addirittura sì, cromaticamente, insomma. Assolutamente. Sono d'accordo. Ognuno ha le sue perversioni, dica. Sono d'accordo sul discorso Atletico Madrid, che è una squadra pessima da incontrare, che ti fa giocare male, riparte velocissimo, quindi ti mette veramente in difficoltà. No, perché poi rompono le palle ad Allegri, che è difensivista, no? Ma no, Allegri dobbiamo fargli una dopo Conte dobbiamo fare una statua ad Allegri per come si è comportato per il dopo Conte. Essendo difensivista, ieri ha messo praticamente tutti gli attaccanti che aveva contro il Barcellona. Aspettavamo Asamoah ed ecco Alexandro. Ormai in Italia quando una squadra si sa difendere invece l'Atletico Madrid nell'alto dei cieli e il Ciolo nell'alto dei cieli, pur facendo ormai da anni con grandi risultati il catenaccio 2.0. dica, il pullman davanti alla porta, come si dice. Un'interpretazione sulla partita che andremo a giocare poi a Barcellona, rispetto a quella che ha giocato il Paris Saint-Germain, che secondo me prendere gol dopo 3 minuti credo che sia stata per il Paris Saint-Germain, credo che Giacinto, tagliamo subito la testa al toro. Il Paris Saint-Germain aveva perso ancora prima di salire sull'aereo che lo portava a Barcellona. Ci fermiamo per il GR e torniamo subito. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti convocati. Oscar, mi aiuti? Eccomi! No, stai attento, prendila di lì! Ma cosa? È scivolosa! Guarda che esplode questa notizia, guarda che è una bomba! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. Notizie esplosive. E schiene dritte. Attenti a noi due, ogni giorno dalle 8:20 su Radio 24. Con Alessandro Milan e Oscar Giannino. L'informazione che non ha paura. Semmai ne fa. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Te ne vuoi stare seduto in panchina a guardare? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti! E andiamo! Convocati. Magari si può pensare per il suo compleanno al closing, alla firma con Mr. B. Più avanti, 2 giorni più avanti, e poi io ormai ho un'età alla quale non si fa più festa per il proprio compleanno. La situazione closing è fissata per il 13 di dicembre, crediamo che non ci siano ostacoli ad ottenere le autorizzazioni che si devono ottenere dallo Stato cinese. È fatta, ci sarà il closing il 13 dicembre. Mi ha domandato un signore del pubblico: ma cosa succede se il closing non ci sarà? Dovrò riprendermi il Milan. Se non arrivassero in tempo, io credo che potremmo spostare il closing di un tempo però limitato, un mese e mezzo, non di più. Mi occupo di Milan e non di Fininvest, e quindi è una domanda che va girata al potenziale venditore che è Fininvest e al potenziale acquirente che è SES. So che domani dovrebbe essere un giorno molto molto importante, però è giusto e corretto che siano loro a rispondere, non io. Oggi era il termine ultimo per arrivare al closing, e il closing è questa, adesso è una certezza ufficiale, perché prima erano solo indiscrezioni giornalistiche. Il closing nella giornata di oggi e nei prossimi giorni di sicuro non ci sarà. Sono contento che se accadrà il closing, mi piace parlare al condizionale, lasciare insomma in eredità a Berlusconi la squadra davanti all'Inter dopo una grande prestazione. questi sono i primi attimi, i primi momenti, i primi minuti di Yonggong Lee, nuovo proprietario del Milan qui a Milano. Certamente saranno due giorni molto caldi, è atteso il closing, è atteso soprattutto la firma, sono attesi i due bonifici da 190 milioni di euro proprio di Yonggong Lee e di 180 milioni di euro del fondo Elliott, ma davvero questa sembra la volta buona. Il Milan dopo 31 anni sta per cambiare proprietà. Allora, io me ne sto qui bello comodo al Salone del Risparmio con la dottoressa Ligios accanto a me del marketing di Radio 24. Abbiamo piazzato una bella cassettina davanti al nostro studio, dato che siamo al Salone del Risparmio, qualcuno avrà qualche euro in tasca. Ho scritto: fate una donazione per il signor Yonggong Lee e per la salvezza del Milan. Però in studio a Milano, insieme a Giorgio De Luca, c'è la vera grande vittima, secondo me dovrebbe anche chiedere risarcimento dei danni a chi non lo so, di questa infinita e interminabile vicenda. È Marco Belinazzo del Sole 24 Ore che dietro a questa vicenda ha perso diversi anni di vita. Non Beh. Solo l'anno e mezzo in cui è andata avanti, insomma. È costata tanto anche a noi questa vicenda, caro Carlo, che sembra giunta al momento definitivo, insomma sono ore febbrili qui negli studi legali milanesi. Tu che sei scrittore ci potrai scrivere oltre a Goal Economy un bel romanzo su questa storia. Guarda, è una bella idea, magari lo farò presto, no? chissà, ma l'importante è che si arrivi a questo lieto fine o comunque a una conclusione che dia qualche certezza al club. Nelle prossime ore appunto saranno definiti i contratti, arriveranno le firme entro giovedì, perché venerdì i circuiti finanziari sono chiusi, per cui i bonifici devono arrivare entro giovedì. Ci sarà appunto, nel momento in cui arriveranno, il passaggio formale di proprietà con le firme sui contratti. Poi è previsto un happening ad Arcore, dove io non sono stato invitato, ahimè, mi sarebbe piaciuto invitato? E questo è una mancanza della nuova proprietà cinese, mancanza di rispetto. Cominciano subito malissimo, eh? Beh, sai che non parlando cinese, insomma, non ho avuto modo, insomma, di capire se mi avessero invitato o meno, perché ho ricevuto diversi messaggi su Twitter in cinese, ma non parlando la lingua, insomma non so se mi hanno invitato, se sono insulti. Detto questo, poi ci sarà il 14 l'assemblea rossonera per concludere questa due giorni, che ratificherà poi anche il cambio della governance con il nuovo CDA, e di fatto poi domenica alle 12:30 si giocherà il primo derby milanese-cinese con le due squadre che alle 12:30, quindi nel prime time cinese, si affronteranno per la prima volta con le nuove proprietà. Mangiando involtini primavera, offrendo involtini primavera al pubblico pagante, che nonostante la depressione di questo derby, ma ormai è una costante a Milano il derby deprimente da retroguardia della classifica, stadio pieno per in omaggio alle nuove proprietà cinesi, una delle quali ben solida ed è quella dell'Inter, l'altra ancora abbastanza incomprensibile dopo la colletta che è stata effettuata, un po' di soldi che arrivano di qui, un po' che arrivano di soldi che arrivano di là, un po' di soldi che arrivano dall'America con Elliott, che però ricordami quanto tempo ha il Milan per il signor Yonggong Lee, quanto tempo ha per rientrare dal prestito ottenuto da Elliott, che peraltro ricordo ha provocato il secondo default in Argentina, questione d'affari. Elliott lavora proprio su questi debiti cosiddetti distressed, cioè quei debiti che difficilmente riescono a essere ripagati. Ci auguriamo tutti, insomma, strozzinaggio legalizzato. Beh, ora non esageriamo, diciamo che soltanto che è un modo di gestire determinati debiti che appunto sono in situazioni di difficoltà e che evidentemente con una gestione razionale si riesce a far fruttare. Sì. Elliott ha perso raramente soldi, insomma, in questi 30 anni. Beh, sono molto complessa, insomma, la struttura del contratto. Comunque parliamo di un tasso di interesse sopra il 10%, insomma, con diversi scaglioni. E correggimi se sbaglio, professore, ma sono un tasso di interesse usurario per la legge italiana, giusto? Beh, dipende. Sto ovviamente facendo di tutto per farmi querelare. Sì, no, sto capendo questo, però capito, non vorrei essere, come dire, querelato con te, visto che insomma ho già una situazione difficile per tanti versi. No, quindi Pippo Baudo nelle migliori circostanze si dissociava, ecco, e quindi mi dissocio, ma diciamo che un tasso di interesse importante che difficilmente nella prima scadenza di 18 mesi Elliott si vedrà in qualche modo ripagato, il che poi può aprire una serie di scenari, perché difficilmente questi soldi potranno avvenire dal Milan, perché al di là di possibili miracoli, difficilmente in 18 mesi una società che perde 70-80 milioni all'anno diventa di colpo appunto capace di produrre utili, soprattutto perché non c'è la Champions che può garantire questo. Elliott in qualche modo ha avuto una garanzia sia su beni di Lee Yong-yong sia sullo stesso Milan, quindi è abbastanza tranquillo. Lo stesso Lee Yong-yong ritiene che da qui al prossimo anno innanzitutto potrà sbloccare una serie di suoi investimenti in Cina e quindi ottenere la liquidità per ripagare Elliott, e d'altro canto spera poi di avere dei soci che potranno aiutarlo insomma in questo percorso. E chi visse, sperando, e non vado avanti, io credo in questo modo con il racconto di Belinazzo, che non dipinge certo uno scenario allegro, credo, per i tifosi rossoneri, credo di aver in qualche modo risollevato la giornata al mio amico Ciccio Valenti. No, intanto ciao Carlo, ciao Marco. Non si risolleva la giornata, ma secondo me non si risolleva neanche la settimana o le settimane, cioè, perché questo è il nocciolo base, perché all'Inter ci siano lavori in corso, e al di là di quello che sono i cambi della proprietà del Milan, dell'Inter, tutti quanti abbiamo degli amici che si chiamano Giovanni, Marco, Paolo, Franco, che sono cugini rossoneri, e loro avranno i loro cugini interisti, e penso che poi la rivalità rimanga sempre intatta, a prescindere anche se si dovesse giocare alle 6 della mattina. Questo certamente, Ciccio, ma dicevo, giornata funesta, anche perché non dirmi che ieri sei saltato in piedi sul divano, come dice Guido Meda, ai gol di Dybala. Siamo onesti, io non avrei stima di tifosi, ma no, stima calcistica, chiaramente stiamo parlando di tifosi bianconeri che avessero così gioito alla notte di Madrid, ma è normale, questa è la sana rivalità, nessuno alzi un dito, nessuno si lanci in stupide o gratuite volgarità. La rivalità è lo spottò è chiaramente, cioè, è un qualcosa per cui io sono favorevole, sono perfettamente favorevole, anzi sono, potrei fondare un partito a favore del gufismo, perché ma non io essendo... ieri sera non ho avuto problemi a scrivere sui social complimenti senza tante pippe, cioè detto in maniera molto molto chiara, perché comunque insomma la Juve mi sembra che abbia assolutamente non solo meritato la partita, dominato la partita. Nelle occasioni sicuramente insomma ha messo al, adesso gliela gufo, però sto scherzando. Vai. Quella frase stupenda che ormai è fatta, però ripeto, è nel massimo rispetto di della sana rivalità sportiva, ma ecco, questo è evidente, Ciccio. Ma questo è evidente. Poi c'è questo chi ieri ha detto che stasera metto la foto di mamma Ebe sul televisore. Oggi ha cambiato idea e ha detto che mette la foto per il ritorno. Mette la foto di chi? Del mago Telma. La mette sul televisore. Del mio piccolo Lorenzino, che è partito con ovviamente essendo interista con la maglietta del Barcellona di Messi, e poi ho una foto invece sconsolata dopo il primo tempo, che è sdraiato, che dorme, che è addormentato, e quindi è rimasto, ho fatto una foto con lui tutto mogio, ma ripeto, sanissima rivalità ma sportiva. È chiaro. Come è giusto che sia. Senti, hai voglia di chiedere tu al professor Belinazzo qualcosa sul futuro dell'Inter, che mi sembra profondamente diverso rispetto a quello del ma Milan, io, lo scenario Marco, mi Marco sembra lo seguo, profondamente lo leggo diversa. Lo seguo, lo leggo e cerco di interpretarlo a volte dove magari non riesco ad arrivare. Mi permetto di dire che magari anche lui fa fatica a capire quelli che sono i progetti veri di Zio Zhang, che è comunque un personaggio che è partito da uno scantinato e poi ha creato un impero. Non penso che negli occhi della ferocia di Zio Zhang ci sia la volontà di continuare con una squadra dove non penso che voglia veicolare il proprio marchio a una squadra che forse arriva in Champions, forse arriva seconda, forse arriva quinta. Cioè, penso che voglia fare una squadra veramente per veicolare il suo marchio e probabilmente anche contagiato dall'entusiasmo dei tifosi. Mi auguro che ci sia un'inversione di tendenza, non certo ora, perché adesso possiamo chiedere molto poco, però una volta messa a posto il fair play finanziario, mi auguro che, come nel risico, ci siano le famose armate che vengono, le famose carte e i jolly che vengono cambiati. Sì, quindi, no, Marco, devi dirmi di sì. Posso... cioè, non è che è importante, cioè, non è altra scelta, devi no, dire no, di posso... sì a Ciccio Valenti. Dico assolutamente di sì. Insomma, ho spesso criticato la gestione precedente, insomma, per una serie di cose che non quadravano. L'arrivo di Suning in qualche modo ha confermato tutti i suoi dubbi. Allo stesso modo dico che con Suning l'Inter si prepara a diventare in Italia la vera rivale della Juventus nei prossimi anni. Che appunto ci sono delle cose da chiedo scusa un secondo che appoggio le goccine dell'ex, ecco. stavo tracannando, temevo questa risposta, le cose da no, è così, le cose da sistemare ci sono. Ciccio Valenti insomma faceva opportunamente riferimento al fair play finanziario, gli innesti di nuove culture manageriali in Italia non sono mai semplici, in particolare poi nel mondo del calcio, quindi magari ci vorrà più tempo di quanto si possa sperare, però io insomma non credo. Io credo non che credo. L'orizzonte sia questo, insomma, l'orizzonte io non è questo. Credo, io mi aspetto invece, vado controcorrente, io mi aspetto un Inter che abbia voglia di sfidare la Juventus già dall'anno prossimo, questo è quello che mi aspetto io. Sono sincero, me lo aspetto anch'io, vero, ho Ciccio, commentato vero. Tavoli da poker dove erano presenti i cinesi, ho visto che cosa vuol dire per loro voler comandare tra virgolette il tavolo, cioè ragazzi, voler questi hanno il grano vero, questi hanno il grano vero, si prendono l'Inter, non vengono qui per costruire e l'aggressività giusta, non vengono qui per costruire mattoncino su mattoncino e magari fra 5 anni avere la squadra competitiva. Questi arrivano per provare a sbancare immediatamente. Beh, l'hanno anche dimostrato dalla ipervalutazione di Gagliardini, sì. Mancano un paio di cosine, secondo me. Una società sia una società strutturata e non quella attuale in cui puoi permettere ai giocatori di fare la figura che hanno fatto a Crotone. Una società strutturata e... mi permetto di dire un allenatore, con tutto rispetto per Pioli, che conosca la strada che porta dove deve portare. Sono assolutamente d'accordo e rincaro un po' la dose. Quando c'è stata la scelta di Pioli, che tra l'altro ricordiamo ha avuto subito una forte empatia con i tifosi interisti per la sua fede insomma, nell'azzurra, per tante cose, per i risultati. Poi però era comunque penso che fosse l'apice di un progetto, no? Che prevedeva Ausilio, Gardini e Zanetti, tutte e tre assolutamente a portare questa candidatura. Ecco, penso che nel momento in cui dovesse cambiare Pioli, probabilmente qualcosa anche a livello di società, ma come succede dal ferramenta, dal salumiere o dalla lettera auto, no? Cioè, in qualsiasi situazione, quando esiste un progetto che magari non risponde all'obiettivo principale che poteva essere, per quanto disperato, però comunque dichiarato, quella dell'entrata in Champions, che adesso mi sembra quanto mai impossibile da conseguire. Vabbè, raccontiamoci le barzellette, certo. Esattamente, probabilmente qualcosa o cambierà o deve cambiare. Non mi sembra che lo zio Zanga abbia tutta questa volontà di attendere, di aspettare, di poter spingere sull'acceleratore. Senti, ti chiedo ancora questo: sei di quelli che se arriva Conte me ne vado, come ad esempio il nostro amico Enrico Ruggeri ce l'ha detto l'altro giorno, o di quelli che invece no, io mi fermo a vedere cosa succede? No, io sono di quelli che un po' si è un po' rotto della stratificazione, sembra un po' il Campidoglio romano, per cui c'è la stratificazione dal carcere Mamertino fino arrivare al Medioevo per poi arrivare all'epoca successiva. Sono dell'idea che debba arrivare uno forte, capace di decidere e non permettere più che ci siano dei personaggi ai vertici della società che dicano anche se dovessimo perdere con la Sampdoria, tra l'altro gufandosela, le cose non cambiano. No, secondo me deve arrivare qualcuno che ci metta il faccione, che sia Conte, che sia un altro personaggio. Certo, emotivamente, se tu mi parli del ritorno di di Mourinho, è chiaro che ci sono i brividi. Cioè, se Diego Mourinho o Simeone preferisci, questo lo posso capire. Questo mi sembra abbastanza evidente, però in questo momento penso che sia necessario avere un faccione, un qualcuno che abbia veramente la voglia di far capire che se vai a Crotone devi avere rispetto per chi ha fatto i chilometri, bravo, gli amici della Campania, della Puglia, della Calabria. No, ma devi avere anche rispetto dei 46.000 che vengono a vederti preso a schiaffi dalla Sampdoria. Quando tu convochi e arrivano con tutto l'amore del mondo 47.000 spettatori lunedì sera, il martedì solitamente sì, si lavora. Vabbè che è primavera, però è un po' biffero, primavera, abbiamo visto troppe di primavera, insomma non voglio più le stratificazioni di gente che così porta amici degli amici anche perché poi purtroppo i calciatori, quelli anche i medi, poi alla fine rischi di dover pagare degli ingaggi e vederli giocare dall'altra parte. Hai ragione Ciccio. In bocca al lupo per il derby, in bocca al lupo a te e a tutti i milanisti. Allora, ciao, Marco, Ciccio, dipingiamo invece buon derby ai fratelli nerazzurri. Ciao. Dipingiamo invece un plausibile futuro per il Milan che verrà, Marco. C'è da dire che nella scelta poi dell'organigramma non si è perso tempo, perché da mesi non conoscevamo la cordata, ma conoscevamo già quello che era l'asse principale, no? Con l'AD Fassone, Mirabelli, direttore sportivo, i quali, diciamo, avranno come impegno fondamentale quello di capire come uscire dalle secche prefinanziarie, perché appunto il Milan è una società in Italia in questo momento che è messa peggio, e quindi con il ritorno in Europa rischierebbe sanzioni, ma si dovrà capire con la UEFA se la nuova proprietà, in quanto appunto decisa a investire, potrà concordare un piano di rientro pluriennale, e questo sarà, diciamo, un aspetto fondamentale anche poi per pianificare il calciomercato estivo. Rispetto, Marco, al quale Marco ti interrompo un attimo, perché facciamo un salto a Dortmund, dove ringrazio Dario Donato, inviato di Mediaset Premium, che è lì a seguire questa vicenda che riguarda la partita di oggi pomeriggio. Ciao Dario, raccontaci le ultime, che è successo, che sta succedendo, quali sono le notizie? Ma le notizie dicono che la procura sottolinea come la matrice islamica sia la più probabile, quindi è stato di fatto un attacco terroristico, tant'è vero che ci sono due sospettati le cui case sono state perquisite, uno dei due è stato arrestato, è stato di fermo, quindi al momento la pista più plausibile sembra quella, è anche, diciamo così, la peggiore delle ipotesi, mentre risulta molto poco credibile quella rivendicazione che è apparsa nella notte su un blog che molti hanno definito antifascista eccetera, però sembrava più, diciamo, un oggetto di qualche mitomane. La questione inquietante di quanto è successo è che all'interno di questi tre ordigni sono stati trovati diversi proiettili, al momento ci sono anche studi balistici per capire come sono stati piazzati, quanto potevano fare male. Quello che è emerso dalla Procura federale, che sostiene la polizia, è che potevano ammazzare sostanzialmente. Uno di questi ha perforato il poggiatesta di uno dei sedili del Borussia Dortmund, quindi è evidente che chi c'era piazzato come aggravante rispetto alle bombe stesse aveva perfettamente cognizione del fatto che si potesse uccidere qualcuno. Certo. Quindi, di enorme gravità, il fatto più grave che dopo quella notte di Parigi che coinvolge il calcio. La partita non è a rischio, però si giocherà? No, la partita non è a rischio. Adesso io sono all'interno dello stadio, sto guardando fuori dall'ingresso della Sud Tribune, che tu conosci, conosci bene, che è la più grande e calda tribuna Europa, e non c'è nessuno. Sicuramente arriveranno quei tifosi, però parlando fuori anche con tanti del Monaco se ne sono tornati a casa. L'atmosfera è paradossale, l'UEFA vuole giocare, i club hanno accordato la volontà di giocare, però è evidente che, come dire, anche le ripercussioni di carattere psicologico, secondo me, i giocatori del Borussia Dortmund potrebbero essere forti. Se è stata Angela Merkel pochi minuti fa, ha telefonato a Watz, che è numero uno del club, e però è una partita che si gioca in un clima che possiamo ben immaginare. Grazie moltissime Dario Donato, Mediaset Premium, Ragazzi, devo chiudere la svelta qui dal Salone del Risparmio, ma tanto ci sentiamo domani tutti convocati alle 14. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.